Lo scettico è colui che esclude la possibilità che si possa arrivare ad una conoscenza assoluta delle cose, e di conseguenza anche della verità, per cui dubita di tutto e non crede in nulla per principio. Con questo atteggiamento lo scettico rimane una delle persone più difficili con la quale poter parlare del Vangelo, perché esso deve essere ritenuto vero e creduto come tale. Ma poiché non esiste atteggiamento dell'uomo che Dio non sappia trattare adeguatamente e al quale non sappia dare una risposta, la parola di Cristo ha qualcosa da comunicare anche allo scettico. Se per principio lo scettico rifiuta anche questa parola, è libero di poterlo fare, ma almeno non potrà dire che non si sia risposto ai suoi dubbi o interrogativi. D'altronde, il compito del cristiano non è tanto quello di convincere le persone, anche perché chi convince i cuori è la persona dello Spirito Santo, quanto quello di testimoniare della verità. Nell'insistenza dei cristiani a predicare il Vangelo di Cristo, alcuni intravedono una cocciuta volontà di voler a tutti i costi romper la testa alle persone, ma poiché neppure Gesù ha mai cocciutamente insistito, anche i suoi seguaci si limitano a dare delle risposte oneste a persone che onestamente cercano la verità o a persone che hanno dei leciti ed onesti dubbi. Ho presente un giovane al quale testimoniavo di Cristo, il quale, vistosi alle strette per prendere una decisione, mi chiese cosa ne pensavo della sessualità e dato che il suo scopo era quello di assecondare il proprio desiderio di esercitare liberamente la sessualità con chi voleva. Alla mia risposta replicò di non poter porre fede in Cristo, perché era contro la sua morale. Quel giovane aveva trovato la scusa per rifiutare il messaggio del Vangelo, ma questa non gli sarà d'aiuto quando si presenterà davanti a Cristo per essere giudicato. Così, proprio perché l'ultima parola sarà di Cristo, anche allo scettico la parola di Dio ha qualcosa da dire. È opportuno ricordare che non è sbagliato aver dubbi, interrogativi, perplessità, perché questi fanno parte della nostra umanità. L'errore però sta nel fare dei nostri dubbi la verità per escludere altre verità. Sarebbe agire come colui che soffre e fa della sofferenza la ragione della sua vita, anziché ritenere la sofferenza un transito per arrivare a trovare la pace e la gioia. Perciò, si può anche dubitare di tutto, si può essere scettici, ma l'importante è non far di questi atteggiamenti la verità della propria esistenza e ritenere che sia possibile anche trovare una risposta che va oltre il proprio problema. Per principio, lo scettico non può farlo, ma ciò che si chiede ora non è cambiare idea, ma solo di ascoltare. In merito allo scetticismo, Agostino di Ippona risponde in questo modo: chiunque comprende che sta dubitando, comprende il vero, e di ciò che comprende è certo, dunque è certo del vero. Ciò vuol dire che chiunque dubita dell'esistenza della verità ha in se stesso il vero, per cui non può dubitarne. Ma il vero è tale unicamente per la verità, perciò non deve dubitare della verità. Chi ha potuto dubitare per qualche motivo? Anche se il discorso è un poco articolato, Agostino vuol dire che chi dubita è cosciente di essere certo di dubitare e nel momento che è certo di dubitare non può più ritenere che sia impossibile conoscere la verità. Gordon Clark riformula il punto in un'altra maniera. Lo scetticismo è la posizione secondo la quale nulla può essere dimostrato. Ci domandiamo, come si può dimostrare che niente è dimostrabile? Lo scettico asserisce che nulla può essere conosciuto. Nella sua concitazione ha detto che la verità è impossibile. È vero che la verità è impossibile? Poiché se nessuna proposizione fosse vera, allora almeno una proposizione sarebbe vera, cioè la proposizione che nessuna proposizione è vera. Se la verità è impossibile, ne consegue quindi che l'abbiamo già ottenuta. Anche in questo caso il discorso non vuole altro se non far comprendere l'impossibilità dell'affermazione che nulla sia vero. Meno, come sostiene lo scettico, meno, perché nel momento stesso in cui asserisce che nulla è vero, la sua asserzione prova il contrario, poiché egli ritiene vero quanto dice. Così, l'affermazione vera e propria, per la quale la verità non è conoscibile, si presenta essa stessa come un'affermazione di verità. Essendo un'affermazione di verità secondo la quale è impossibile fare alcuna asserzione di verità, essa mina le sue stesse basi. In definitiva, se la dichiarazione o la posizione dello scettico è vera, allora C è almeno un'affermazione che è vera anziché falsa. Se invece essa è falsa, dobbiamo concludere che ci sono affermazioni vere e false. Se invece l'affermazione dello scettico non è né vera né falsa, allora perché dovremmo prestare attenzione a ciò che dice lo scettico? Quest'ultima domanda non è mancanza di rispetto verso chi ritiene impossibile conoscere la verità, ma è l'inevitabile risposta a chi ragiona in un certo modo. Se lo scettico ha il diritto di ragionare, anche i cristiani hanno il diritto di rispondere con gli stessi argomenti. Quando lo scettico sostiene che la verità non si può conoscere, viene spontaneo chiedersi come fa a saperlo, mentre quando affermano che è possibile conoscere la verità, i cristiani spiegano come fanno a saperlo. E di questo tratteremo. Se la verità esiste per forza di cose, essa non si trova per caso, e lo dimostra il fatto che la maggioranza delle persone, meno compreso lo scettico, meno la mette seriamente in dubbio. Proprio perché è difficile cogliere la verità, i cristiani hanno sempre messo tutto il loro impegno nel ricercarla. Lo dimostra l'evangelista Luca nel presentare il suo Evangelo. Poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca 1:1-4. Al tempo dei primi cristiani, vari scritti riferivano gli avvenimenti successi in merito ad un oscuro Galileo di nome Gesù Cristo, e poiché spesse volte, come sostiene lo scettico, le nostre idee non sono che copie delle nostre impressioni, l'evangelista Luca ha indagato in modo accurato per poter dare la certezza degli avvenimenti. Un avvenimento di per sé è la verità. Perché se io cado per le scale, è possibile discutere come sono caduto per le scale, ma non è possibile negare che per le scale io sia caduto. Così i primi cristiani si sono sempre preoccupati di riferire non solo gli avvenimenti, ma anche il loro svolgimento affinché tutto fosse corrispondente alla realtà. E questo perché chi legge possa avere la certezza delle cose. Lo scettico dovrebbe tener presente questo. Proprio perché i cristiani erano così scrupolosi nel riferire i fatti della vita, l'apostolo Paolo annuncia dei fatti che producono delle certezze. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. 1 Timoteo 1:15. L'apostolo Paolo riconosceva l'incertezza di tante cose, meno. E questo dimostra che lo scetticismo e lo scettico non sono certamente una novità. Meno, ma se tante cose erano opinabili, cioè discutibili o passibili di interpretazione, il fatto che Gesù Cristo sia venuto nel mondo per salvare i peccatori sono dati sui quali non è possibile avere dubbi. Si può discutere se Gesù sia Dio e se sia nato da Maria ancora vergine, ma non è possibile mettere in dubbio il fatto storico di Gesù. Essere dubbiosi in merito significa non solo negare il cristianesimo, ma anche altre fonti storiche, quali per esempio il Corano, nelle quali viene ricordata la persona di Gesù. Il cristianesimo nella sua essenza produce proprio l'atteggiamento contrario a quello dello scettico, donando all'uomo sicurezza e attendibilità. Si potrebbe anche ritenere la risposta del cristianesimo un fatto soggettivo, o il risultato di un'autosuggestione, ma i fatti storici e le testimonianze non bibliche impediscono una simile conclusione. Pochi riflettono su questo aspetto, perché l'opinione comune è che si debba credere a qualcosa, e una volta creduto, ciò che si crede diventa vero. Così, si pensa che io debba credere che un mio debitore mi restituisca dei soldi, e riceverò i soldi dal mio creditore. Oppure si pensa che io debba credere che vincerò un concorso e di conseguenza vincerò il concorso. Ma la fede della quale parla la parola di Dio è esattamente al contrario. La definizione per eccellenza che cosa sia la fede la troviamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 11, nella quale si dice che la fede è realtà delle cose che si aspettano. In effetti il credente è chiamato a credere non a ciò che non esiste, come ad un elefante che voli meno tipo Dumbo, ma Dio richiede al credente che la sua fede sia posta in ciò che è vero, in ciò che realmente esiste ed è esistito, in ciò che è sostanziale e concreto. Perciò lo scettico non ha compreso che il rimanere nel dubbio o il ritenere che non esista una verità non annulla minimamente la realtà delle cose. Quando ero un ragazzo, una bambina della casa nella quale abitavo cadde dal primo piano sul marciapiedi senza farsi neppure un graffio. Che ci si creda o no, il fatto rimane. Per chi crede, la realtà dell'avvenimento diventa una sua certezza, e la certezza produce una convinzione, mentre chi non crede che la bambina sia caduta dal primo piano e sia rimasta illesa, non fa diventare falso ciò che è vero. Così la posizione saggia dello scettico è quella di dubitare del suo scetticismo, di indagare con onestà e precisione la realtà della vita, di porre fede in ciò che è oggettivamente vero. Diversamente non gli rimane che una solida base di incrollabile disperazione. La verità non può essere confutata o annullata con supposizioni o parole. Queste servono solo ad autodistruggerci. Il cristianesimo presenta Gesù Cristo come la realtà di Dio, perché in Lui abita corporalmente tutta la Deità. Una conclusione, questa che può certamente essere discussa, come del resto è discutibile lo scetticismo dello scettico. Ma al di là dei ragionamenti elaborati e ingegnosi, un fattore rimane vero per me. Da quando mi sono arreso alla volontà di Cristo, il mio rapporto con Dio, con me stesso, con il prossimo e con la realtà della vita, si è trasformato positivamente. Non cambierei con nulla al mondo la bellezza di questa vita. E vorrei che tutti, all'infuori dei miei limiti, fossero come me e conoscessero Cristo quale Signore e Salvatore. La cosa divertente è che, nonostante lo scetticismo dello scettico, nulla cambia della stupenda realtà della mia vita. Settembre 2006. Ellero.